Hola, attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione al canale 10. Chi va? Gianni. Poi Antonio. Come va? Tutto a posto? Tutto a posto, niente in ordine. io lo stesso, più che altro, no. Stavo provando a accendere a vedere se c'era qualcuno, ma non rispondeva nessuno, stavo per spegnere tutto, ma io ogni sera li accendo lo stesso, anche se non c'è nessuno accendo tutto, perché faccio scaldare un po' gli apparecchi, li accendo tutti, lascio una mezz'oretta e poi li spengo. E anche qualche volta accendo tutto. Vabbè, non è tutti i giorni, ma comunque sia, ogni tanto l'accendo, non uno, ma magari due, quello che è, ma l'accendo comunque sia. Ma non è entrato nessuno stasera, che tu sappia, non è sentito nessuno. Non lo so, io la verità mi sono portato appresso, io di solito mi porto appresso il GMR, quindi a un certo punto stavo parlando con Simona e dopodiché hanno parlato con me quello che c'aveva il bar in via Corso, in via Carbonazzi, quindi a un certo punto, cioè via Forlì, non via Carbonazzi. C'erano i balli e hanno parlato con me. Capito. Ma quindi con Simona vi parlate con più a me? Sì, quando io esco fuori sì. E bene prende, che cosa c'hai? Il Baofeng? Il Baofeng c'ho. Non sei il Baofeng, io lo sai. C'ho il V5 R++, poi ce ne ho l'888, ne ho 4 di quelli io. Cosa te ne vai a togliere tutti questi Baofeng? Mi servono in pratica per lavoro, già lo sai. Gli altri due sono di riserva, hai capito? Sono nuovi dentro la scatola, senza neanche modificarle, figurati tu. Io ce l'avevo, l'ho regalato uno, il V5, l'ho regalato, non me ne posso nulla, non sento nessuno, io l'antenna non ne voglio mettere, quindi non me ne frega nulla. Ma le faccesse, diceva quello. Io comunque è pieno in tutti i canali sono pieni, c'è gente che parla, quindi a un certo punto ti diverti. Ma quando ce l'avevo io sentivo a Giulio dagli punti, poi a cosa, a chi sentivo? Quelli vicino, dai, quelli che c'erano vicino, a Franco, tutti quelli lì, a Luca, però poi da questa zona qui non usciva. No, io parlo con tutti, parlo, anche con quelli qui vicino, quelli che hanno l'azienda, ci parlo con tutti, figurati, sto parlando con quelli del bar di stamattina, dove sono andato a prendermi il caffè, hai capito? Mi hanno chiesto chi ero, Antonello, eccetera, eccetera, no, ho capito che sì, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto sono rimasti tutti contenti, la verità. Non si sono mai, lamentati. Dopodiché poi c'è il coso, quello che c'è il locale qua di fronte a casa mia. Quindi la verità è un discorso diverso, ma comunque sia. Però mi diverto, capito? Poi c'è il saggista, ci parlo tranquillamente, parlo con gli infermieri, quindi cioè, è una cosa bella la verità. Ma ruote non ce ne sono, dai, sono solo a livello aziendale di USA. Vabbè, io ho parlato quasi un 4 ore, mezz'ora con quelli là del bar, figurati, con questa ragazza, è stato gentile la verità, già va bene allora, se tu senti tutta questa gente, ma tu c'è l'antenna, è normale che senti tutte queste persone, ma col gomino non ce la fai. E chi ti aveva detto a te? Ho parlato con Gommino, mica con l'antenna esterna. Ho parlato con Gommino, e che cosa è quello? Ma sei in alto tu, capito? Sei molto in alto, quindi ti viene bene. Io la zona, io con quello lì sono arrivato anche in continente, ma mi ha puntato la direttiva, capito? Per quello ci sono riuscito ad arrivare. Lo so. Chiaro, lo so, non ti preoccupare, ci mancherebbe. Con quell'amico di Vittorio, quello continentale, anni fa, parlavamo di notte. Lo so, in Corsica specialmente. No, non era in Corsica, era in continente, adesso non mi ricordo che città era, però era in continente. E c'aveva la direttiva, te la puntava, dice dove sei, a Sassari, e prendeva, puntava la direttiva. Parlava, lo sentivo perfettamente, lui ha detto che mi sentiva bene lo stesso. Ah, figurati tu. Ah, siamo a posto. Vabbè, meglio così, sono contento. Avevo quell'omologato della Inter, che non c'avevo Baufer, una roba del genere, c'avevo quello della Inter, che ce l'ho tuttora quello lì, mi sa. Quello ce l'ho davvero, ce l'ho tuttora. Non l'ho più acceso, però ce l'ho. Ho capito, aspetta un secondo. Che frequenza trattano le persone che sentite? Tutti in una frequenza, va. 446 canale 1 in pratica, 46, vabbè, insomma, 446 006 per esattezza. Ho capito, ma adesso le metto le batterie a quello omologato a vedere se riesco a trovare, a sentire, almeno a sentirli, perché l'avevo un po' abbandonato, dai, l'ho lasciato da una parte. Perché sei divertito, guarda. Devo avere le mezze pezzi che ho, di baracchini, di cose, l'ho messo lì, perché non lo stavo più usando, lo usavo quando ero al Cison, quando andavamo a fare Sassari Porto Torre, usavamo quelli, un anno li abbiamo usati, poi non li abbiamo più usati, usavamo quelli lì per sentirci uno con l'altro, perché oltre alle radio che abbiamo, c'era Porto Torres che ce l'aveva 27, c'avevamo la frequenza era 27, poi c'avevamo VHF e c'avevamo anche quelli lì, capito? Ho capito, ho capito, aspetta un attimo. C'è nessuno? Vediamo un po'. Perciò non risponda, è la verità, ma comunque sia, poco fa. Non pensavo risponda, se non è... Comunque, 446006, più che altro, la frequenza. Della, cioè, di Piandanna più che altro, hai capito? Ma magari adesso non ci sono più, hanno finito di lavorare, cosa, ma anche parcheggiatori, questa roba qua, senti, parcheggi dei supermercati, perché lo usano anche i cinesi, ho visto. Sì, ma c'è, usano 462, non 46, non 46, il discorso è diverso, hai capito? Quindi, un po', piace, beh, sicuro dice qualcosa. Non rispondo, vabbè, se la prendono in culo, a un certo punto, di solito rispondevo subito, la verità. Vabbè, ma se ci sono vicini sì, ma per dire che quando lo usano nei cantieri, cosa, non entra a disturbare, no? Bisogna anche sapere dove entrare, se ci sono ruote così normali. Sì, sì, guarda, stasera mi hanno risposto, anzi mi hanno chiamato da qualcosa, la verità. Cosa ti posso dire? Bombardo mi hanno chiamato. Io sono IPMR, sul canale 7. Abbiamo parlato assieme, siamo divertiti e grazie a Dio tranquilli. Che è interessante è rispettare il prossimo, cui già stai bene, quando ti fa una chiacchierata tranquilla. L'interessante è avere il rispetto. Ah beh, quello sì. Vabbè. E beh, ancora la moto presa te l'hai. No, la moto l'ho abbandonata, più che altro quello scooter, perché il cazzo era un suicidio, la verità. Hai capito? Quindi lasciate in fondo, adesso vediamo un pochettino. Se si può trovare uno scooter simile a quello, con ammortizzatori, non senza ammortizzatori, se no cazzo è un casino. Perché quello era fisso, non aveva ammortizzatori. E senza ammortizzatori era, ce la fai, sembrava il tram, cazzo, quando ti sei magari dei primi che sono usciti quelli lì, appunto per quello, quindi a un certo punto già sarebbe comodo, perché andare a farti la spesa, tutte queste cose qui, almeno qualche cosa te la puoi prendere con quello lì, capito? Grazie, ma stanno esplodendo, non vedi quelle macchine a batteria? Adesso su internet poco fa ho visto questa macchina che camminando si è incendiata, ha fatto il tempo e tempo a uscire il proprietario, stava chiamando ancora i vigili del fuoco, e si sentiva pum pum pum, dice compratevi le macchine elettriche che fanno questa fila. Figurati, tirava da fuoco, cosa è? Purtroppo così. Antonio ce l'ha fatta così a uscirnemi, perché c'era già la fiamma alta, capito, davanti. Se l'ha vista di colpo la fiamma alta, ha fatto in tempo a aprire lo sportello e scappare fuori. E se non ce la faceva a slacciarsi la cintura, ti rimani. Ci usciva a sparatura, ci usciva, figurati tu. Poi sono pericolosi, io non ho molta fiducia in queste macchine qui. Poi con l'umidità l'elettrico si rovina, c'è poco da fare, si ossida, tu lo sai benissimo, no? Con l'umidità tu mi dirai saranno protette, quello che vuoi, però l'umido penetra da tutte le parti. Già non so, ma purtroppo è così, allora è facile. A un certo punto. Oggi è venerdì, sì. Sì, oggi è venerdì. Oggi c'è il karaoke, se vuoi andare a cantare, beh, a Bancali che c'è un bel karaoke. Oh, c'è proprio il Cosimo, lascia perdere, se no lì volentieri sei anche andato. Non sta bene, no? Hai capito? Non sta veramente bene, se no l'avevo lasciata anche sola, come prima. Non posso lasciarla sola, tutto qua Simona. C'è paura, sì, nel caso si alza a casa e ci rimane secca, hai capito? Quindi, no, il discorso è quello lì. Sono imprigionato già, sono imprigionato davvero, guarda. Se no volentieri sarei uscito, ma come guardando da Gianni, cioè non a Gianni, a Cristian, figurati, a pranzo, prima andavo a pranzo ogni sabato, adesso non ci posso più andare, ho cancellato tutto, no? Quindi se mangio a casa, eccetera eccetera, se devo farmi qualche lavoro, ho due euro e mezzo di tempo a farmi quel lavoro, incassare i soldi, eccetera eccetera, capito? Dopodiché devo rientrare a casa, cucinare, eccetera eccetera, lavare per terra, e niente da fare, cazzo. Hai capito? Sono solamente io che faccio tutto. Simona purtroppo non si può più sollevare dal letto. Il discorso è quello. Ma non si deve, non deve stare su più curicata, se no è peggio, non deve far camminare. Non ce la fa, non ce la fa. Ehi, se no, cazzo, gliela avevo detto, no, già lo sai anche tu. Non ce la fa, non ce la fa, no. Pesa 73 kg, mi pesa, non hai capito. Ma non sta mangiando. Sta mangiando, sta, di tutto sta mangiando, cazzo. Sta la cosa, compagno, la roba da mangiare, cazzo, alla crai, roba di cosa. Di tutto sta mangiando, cazzo. E continua a dimagrire, così? Mangia lì, ma lo mangio io, il discorso è quello, hai capito? A me non mi frega niente di mangiare. Posso mangiare per me anche un piatto di pennette, ma il piatto che mangi lì. Per campare bisogna mangiare, Antonio, anche tu devi mangiare, lo accetto. Ma che cosa c'ha? Che tipo di malattia c'ha? Perché si sta deperendo così? Non si sa, non si capisce. Non si capisce la verità, è tutto da vedere, adesso lo farò vedere al medico, vediamo un po' cosa devo fare. Ma se è così la devi far ricoverare, far controllare bene, non è che puoi lasciarla così, no, che se no va a finire che continua a dimagrire. Per quello, la 34, la 38, cioè la 36, la 34, la 33 kg, non lo so, 3 kg e mezzo ha perso, quindi figurati tu. Sì, è stata sempre magra, ma così no. Appunto per quello. Ricostituiti, ha bisogno di ricostituiti, di qualche vitamina e qualche cosa per tirarla su, qualche integratore. Dovresti chiamare il dottore e farmelo presente. Se vogliamo un pochettino, cosa abbiamo voce, cioè, che non va a un certo punto. E invece tuo fratello sta a me. Già più se ne frega di me, e anche di te, non so altro. Ma sta camminando adesso? No, Giampiero non cammina, mica cammina Giampiero. Giampiero si siede nella quella specie di scooter automatico, cazzo, con joystick. E va, si beve la birra, quello che è, eccetera, eccetera, poi rientra a casa. Sta bevendo ancora? Eh? Ancora beve. Beh certo, si beve la birra e quello che è, eccetera eccetera. Okay. E lo scooter quello lì che gliel'ha dato, la SL oppure l'ha dovuto comprare? Gli ha regalato lì, come si chiama, all'associazione, più che altro. Ah, fa parte di un'associazione? Associazione, infatti. Mi ha regalato a lui, ma a me niente, cazzo. Ho chiesto, quell'imbecille imbecille non mi ha dato niente, cazzo. Ma fa culo a lui. Tu chiedilo per Simona. Ah, guarda, cazzo, mi dà quella, guarda. Perché se ne va a fare culo, è meglio niente. Non devo andare a piangere a piacere di nessuno, che se la prende in culo. Hai capito? A un certo punto non mi interessa niente, me lo compro da fanculo in seguito, non adesso, me lo prendo a rate e se la mia in culo e poi io mi faccio cazzo, a un certo punto il discorso è quello, se mi cercate voi non potete venire a me, cazzo, se ho provato il comitato, no, vai a fanculo, vai. Tu, l'associazione, che cazzo te l'ha fatta? Cos'è la sorgente? La sorgente, bravo, sì. Autista è quello del pulmonare, aveva messo sotto a mio padre. Mio padre è tornato a casa tutto graffiato e cose, non ha nemmeno soccorso. Praticamente è tornato a casa e l'ho medicato io a mio padre, poi l'abbiamo portato in ospedale noi, perché il tipo forse lo voleva soccorrere, però lui non ci ha voluto andare, praticamente l'abbiamo dovuto portare in ospedale a farlo controllare. Vabbè, non c'era solo pestato, però... Non capito, capito. No, la verità... Il campione ci vuole prendere la sua gente. Io accompagnavo, l'ultima volta che ho visto qualche parente, l'ultima volta che abbiamo fatto la camminata lì alla cosa, alla prima, ci ho trovato a mia zia, capito? Ci sono andato a lei con una carrozzina e sotto la carrozzina una bambola ci ho trovato, ma a te sembra normale, cazzo. Chissà quanta gente con le orecchie di porco ci ha ascoltato. La può fare più che altro, capito? Ha detto, ma cosa ci fai tu con questa affare di... Io pensavo che c'avevi qualche cosa, qualche bambino, no? Mi ha detto. Sono rimasto secco, sono rimasto dentro. Tuffa, infatti una tuffa ha fatto. Lei era tranquilla, camminava, cazzo, a spingere, cazzo, questa carrozzina, piccolina, ma piccolina mi, come per bambini, cazzo, come fanno i rubini a prendere la mondezza, uguale, identica, precisa. Lei ha fatto così. Ascolta, a San Camillo è provato a vedere se ne hanno, perché io mi ricordo che quando mio padre stava male ci avevano dato il letto da San Camillo, siamo andati noi a ritirarlo e poi gliel'abbiamo riportato quando è morto, gliel'abbiamo riportato. E ci avevano dato il letto, ci avevano un magazzino tutto pieno di queste cose. Ehi, ci vuole 162, non ce l'ha Simona purtroppo ancora. Spero solo che gli arriviamo, se non è 162, immediatamente con quella legge lì gli danno immediatamente lo scooter, hai capito? A nome suo. Con la conoscevo io questa legge, fatti un conto. E per infermi proprio. Esatto, bravo, sì, per infermi, non è per infermi, ma comunque sia, è così, a meno che non conosci qualcuno, tipo la soggetta che te la via, è un regalo, capito, ci sono gli incozzati e non incozzati, il discorso è quello. Ma noi le sedie normali, però le sedie rotelle normali, in associazione le avevamo quando servivano a qualcuno, praticamente ce le donavano quando, per dire, noi portavamo qualche anziano a fare le visite e cose, poi quando moriva ci davano le sedie, ce le regalavano, no? E noi le mettevamo a disposizione per chi ne aveva bisogno, capito? Ti davano un'offerta, gliela lasciavamo, poi quando finiva di usarla la riportavano, capito? Ti ho capito, ti ho capito. Va bene, adesso purtroppo è diverso, hai capito? Io ho fatto, sono andato di là e mi hanno detto, non c'è nessun problema, ma ci vuole anche la 162, cazzo è 162, se vuoi, ho detto la mia ragazza, che cazzo fa il 162, cazzo, a un certo punto, hai capito? E quindi no, non si può fare, siccome so da un amico mio che fa la vigilanza, che lì ci sono tante di quelli scooter buttati giù a piano terra, hai capito? Lampati, quindi a un certo punto da caso va, ma pazienza, il discorso è quello, vabbè, come sai, prima ci sono le associazioni, eccetera, eccetera, amici di amici, eccetera, eccetera, ci vuole per forza, non è 162, non ci vuole, cazzo, oppure gli dico ci vuole per forza, non è quello, il discorso è, mi permette la regolata a Simona, lo scooter di quelli, cioè scooter, vabbè, non c'è poco, Simona, no, parlava a me, hai capito, uguale a me, quello che ho io, mi sa che avete staccato il pezzo, tacca, avete messo il pezzo da quello lì, o se no avete preso direttamente lo scooter preciso, avete fatto in garage da quello lì, ne avete fatto due, il discorso è quello, e invece purtroppo non posso fare un cazzo. Il discorso è quello. E solo che a comprarlo questa un bel costava un sacco di soldi, mi risponde. E vabbè, aspetta se te lo dà. E anche perché la fai si muovere in qualche modo. Almeno seduta riesce a camminare con lo scooter. Andava Antonio, dai, ti saluto che devo portare il cane giù. Non lo so se tu il tuo l'hai portato già, ma io devo portarlo adesso. Ci sentiamo, dai, mi ha fatto piacere il PSO. Alle prossime. D'accordo, ok, ci siamo domani, no? Ok, stai bene, buon tutto, buona passeggiata e cosa ti posso dire? Buon tutto. Ciao, ciao Antonio, ci sentiamo. Buon tutto anche a te, ciao. Ciao.